30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Gli scienziati fanno marcia indietro, i ghiacci dei poli non stanno arretrando, anzi, i ghiacci al polo aumentano, allarmisti sul riscaldamento globale sotto tiro. Gli scienziati americani hanno rivelato che i ghiacci si sono formati nuovamente nelle ultime settimane, tornando ai livelli di 30 anni fa. Buongiorno a tutti, io sono Gigi Donelli, vi do il benvenuto a 30 minuti in cronaca, il nuovo programma del sabato, dove ci prendiamo qualche minuto in più per ragionare, approfondire una notizia di quelle che viaggiano velocissime nel nostro affollato panorama informativo. Ghiacci artici a livello del 1979, dunque la nostra notizia, la notizia su cui ragioniamo oggi. Dopo l'allarme dello scioglimento, le superfici ghiacciate sarebbero aumentate velocemente. I titoli che vi ho letto sono apparsi tra il 5 e l'8 gennaio di quest'anno, ovviamente sul web, sui telegiornali pubblici e privati e su alcuni quotidiani. Per alcuni è stata addirittura l'occasione di commentare quella che è stata definita la balla globale del riscaldamento. Tutto questo proprio mentre l'Italia del Nord era avvolta da una grande nevicata. Allora, comincio subito a introdurre i nostri ospiti. Oggi abbiamo con noi Stefano Caserini, che è docente di fenomeni di inquinamento al Politecnico di Milano. Buonasera. E buonasera a Marco Magrini, inviato del Sole 24 Ore. Buonasera. Allora, Caserini, qual è il primo commento a questa notizia? Insomma, una svolta clamorosa, si direbbe. Sì, ma una svolta no, non è una notizia, è una bufala. Una bufala che ormai è stato mostrato da dove è nata questa bufala, per una catena di impatti, di imprecisioni, di loro interpretazioni e poi di esagerazioni giornalistiche. Quindi non è vero che i ghiacci artici si stanno aumentando, stanno sciogliendo, si stanno fondendo a una velocità maggiore di quella che gli scienziati in passato avevano previsto. Quindi in primo luogo una bufala, appunto, inutile chiamarla diversamente, di cui magari vi racconto brevemente la storia, nel senso che la fonte di questa notizia è un articolo pubblicato dal giornalista americano Michael Asher sulla rivista online Daily Tech, un articolo del 1 gennaio in cui si affermava appunto quanto abbiamo detto. L'effetto farfalla, in qualche modo vorticoso, che ha portato questa notizia alle prime pagine impiega circa 7-8 giorni ad operare e coinvolge direttamente un centro di ricerca dell'Illinois, il centro di ricerca sul clima artico dell'università appunto dell'Illinois. Viene citata una ricerca che poi alla prova dei fatti invece viene assolutamente smentita. Insomma, accadono spesso questo tipo, diciamo, di comunicazione errata, Caserini, nel mondo tra la divulgazione scientifica e l'informazione? Sì, a volte capita, spesso quando si annunciano appunto dei dati ci sono delle imprecisioni, però la responsabilità del centro di ricerca del professor Chapman è soltanto una parte del problema. Lui ha presentato effettivamente i dati in modo impreciso, non facendo chiarezza fra la presenza di due serie di dati diversi, se derivanti da sensori differenti, quindi non confrontabili sul lungo termine. Ma poi è stata innanzitutto la responsabilità principale del blog che spesso presenta informazioni negazioniste sul clima, che ha selezionato arbitrariamente due punti di questa tendenza dicendo che c'erano meno. I giornalisti, hanno capito male, sono passati dai ghiacci totali marini artici antartici, quindi complessivi, a soltanto il ghiaccio artico, e alla fine i titolisti hanno parlato arriva l'era glaciale, non esiste più il riscaldamento globale. Quindi sì, il professor Chapman poi è intervenuto chiarificando sul sito del suo centro di ricerca come stavano le cose, però ecco, la sua colpa rispetto a quello dei passaggi successivi è sicuramente più bassa. Ecco, questa smentita peraltro la potete trovare sul nostro sito, il documento che appunto Chapman, questo 44enne ricercatore del Dipartimento di Scienze Atmosferiche dell'Illinois, ha pubblicato. Aveva peraltro incautamente messo entrambi i numeri di telefono di ufficio di casa sul suo sito, è stato letteralmente coperto di richieste di precisazione e poi ha prodotto un documento che trovate sul nostro sito. Allora, Marco Magrini, è sempre colpa dei giornalisti alla fine? No. Non necessariamente, è ovvio che nonostante sulla questione del cambiamento climatico ci sia ormai in maniera indisputabile un consenso scientifico, come dire, la questione resta sempre aperta, almeno nella mente dei detrattori. Negli Stati Uniti ci sono tuttora numerosi centri di ricerca che sostengono che il riscaldamento globale è una finzione. Ovviamente devo ammettere che il consenso della comunità scientifica, come dicevo prima, è ormai indiscutibile, per cui in realtà non ci dovrebbe essere questo genere di dibattito, però la verità è che è normale nel mondo dell'informazione che poi succedano questo genere di cose. Ecco, negli ultimi 20 anni c'è stata una vera e propria trasformazione della percezione di questi problemi, molto è anche legato al percorso stesso dell'IPCC, quindi del forum creato dalle Nazioni Unite proprio 20 anni fa per affrontare queste problematiche. Addirittura nel 2007 la vittoria del Nobel per la pace e poi anche molte critiche. Ecco, Marco, tu hai seguito un po' il percorso di questi grandi incontri, l'ultimo in Polonia, i prossimi saranno tra Copenaghen e Ginevra. Com'è cambiato la partecipazione, la percezione di questi temi negli anni? È cambiata sensibilmente. Io credo che, giusto appunto, tu citavi l'IPCC, il braccio climatico dell'ONU, che con i suoi rapporti e i suoi 2500 esperti ha prodotto dei rapporti che appunto vengono giudicati dalla comunità scientifica ormai certi. Abbiamo una certezza che l'umanità sta contribuendo al riscaldamento del pianeta. E devo dire che ai summit annuali delle Nazioni Unite, in particolare negli ultimi 2 anni, abbiamo visto, a parte gli Stati Uniti che sono rimasti durante l'amministrazione Bush rigidamente nelle loro posizioni, abbiamo visto un grande cambiamento di atteggiamento, per esempio dalla Cina, che negli ultimi 2 anni, da una posizione diciamo abbastanza intransigente fino a 2 anni fa, recentemente ha cambiato completamente il corso, e il governo della Repubblica Popolare sta già facendo azioni e ha già detto chiaramente che intende arrivare al vertice di quest'anno a dicembre a Copenaghen con la chiara intenzione di arrivare a un nuovo trattato internazionale per la riduzione obbligatoria delle emissioni serra. Quindi il percorso è, diciamo, in moto. La comunicazione fra scienza e politica non è facile, non lo è mai, ma non lo è nemmeno quella tra scienza e scienza. Stefano Caserini ha scritto un libro, il titolo è A qualcuno piace caldo, evoca un classico della cinematografia. In 3 righe dice: il libro vuole provare a spiegare il problema dei cambiamenti climatici a partire da chi sostiene che il problema non ci sia, cercando di capire se le affermazioni a volte clamorose dei negazionisti climatici reggono il confronto con l'approfondimento scientifico. Innanzitutto, questo termine, negazionisti, evoca qualcosa di diverso, qualcosa di molto tragico? La scelta è dovuta al fatto che non fosse il termine migliore per descrivere un ostinato e testardo rifiuto delle evidenze della comunità scientifica. È un termine che va detto utilizzato anche in altri contesti, pensiamo al dibattito sulla ricostruzione degli eventi dell'11 settembre o sul declino delle risorse fossili, quindi si vede che anche lì viene utilizzato. Basta indicare un rifiuto testardo, quindi è diverso dallo scetticismo. A volte si parla di ecoscettici. Ecco, lo scetticismo è il motore del processo scientifico, quindi qualsiasi scienziato deve essere scettico prima di tutto verso i suoi risultati. Ecco, lo scetticismo è una cosa positiva, mentre il negazionismo è non volere riconoscere quando ormai su alcuni punti non bisogna più discutere, bisogna passare a discutere di altro, di altri dettagli. Oggi purtroppo nel dibattito, appunto, nelle proposte dei negazionisti ci sono ancora alcuni temi, pensiamo, non so, all'influenza del sole o appunto al fatto che gli ghiacci aumentano, su cui ormai ci sono dati evidenti, su cui la comunità scientifica ha dato risposte ormai almeno da 5-10 anni. Insomma, lei dice, e attraverso il libro lo ricordo che cita moltissimi casi in questo senso, che c'è una differenza sostanziale tra l'essere scettici e essere negazionisti, esattamente come lei ha citato l'11 settembre, c'è per chi cerca complotti strani e diversi dall'evidenza che è condivisa dalla maggior parte delle persone intorno appunto a quegli attentati. Torneremo naturalmente su questo punto. Marco Magrini, volevo chiedere invece a te, tornando diciamo al fronte politica e della comunicazione tra scienza e politica, gli italiani, noi italiani, siamo in linea con questo mainstream, direbbero, con questo flusso principale del pensiero sull'ambiente, o come spesso accade abbiamo una posizione un po' originale? Ma non parlerei di una posizione originale, però parlerei di una insufficiente informazione, lo dico anche se appunto di mestiere faccio il giornalista e di informazione mi occupo. Quando io mi incontro con persone, non so, dalla Germania o dall'Inghilterra, trovo che la consapevolezza del cambiamento climatico è molto più diffusa e devo dire anche molto meglio percepita. E io in questo credo che non sia tanto colpa dei giornali, mi viene da puntare il dito sulla classe politica. Perché dico questo? Perché per esempio in Germania il cancelliere Angela Merkel parla continuamente del problema climatico, Sarkozy ha fatto altrettanto in Francia, addirittura in Inghilterra i giornali riportano di frequenti dibattiti fra il leader conservatore David Cameron e il primo ministro Gordon Brown, che litigano perché Cameron addebita a Brown di non fare abbastanza per i cambiamenti climatici. Ecco, in questa situazione dove la politica parla spesso del problema climatico e della necessità di abbattere le nostre emissioni di CO2, il pubblico è inevitabilmente più informato. Insomma, l'ambiente è un tema da leader nell'agenda dei leader. In Italia in realtà non è mai accaduto. 30 minuti in cronaca. Ancora un saluto da Gigi Donelli e vi ricordo, state ascoltando 30 minuti in cronaca, il nuovo programma del sabato dove ci prendiamo qualche minuto in più per ragionare e approfondire sulle notizie che ascoltiamo e che passano rapide nel nostro panorama informativo. Stiamo parlando di riscaldamento globale, di informazione intorno ai temi ambientali. Con noi questo pomeriggio Stefano Caserini, docente di fenomeni di inquinamento al Politecnico di Milano, e Marco Magrini, inviato del Sole 24 Ore, che ormai da anni segue le tematiche ambientali. Dunque, parlavamo dell'agenda politica. Magrini. Sì, esattamente, e quello appunto che addebito ai governi italiani senza distinzione di colore, perché se mi permetti la battuta, né Prodi né Berlusconi hanno mai detto qualcosa di verde, addebito a loro il fatto che non ci sia sufficiente dibattito su questo tema e sufficiente attenzione da parte dell'opinione pubblica italiana. Torniamo invece al mondo scientifico. Sarebbero sempre più numerosi gli scienziati che contestano le tesi del cambiamento climatico. Questo mi sembra veramente poco probabile. Di fatto, se intendiamo come scienziati quei ricercatori che pubblicano sulle riviste scientifiche, quindi che sottopongono le loro tesi alle forche caudine del meccanismo della peer review, quindi del controllo di altri scienziati prima della pubblicazione, vediamo che di tesi un po' strane non sono veramente poco frequenti. Sulle letterature è stata fatta anche un'indagine che mostra che su queste riviste scientifiche, quindi pensiamo a riviste prestigiose, Science, Nature, che ti danno poi titoli per la tua carriera, è veramente difficile trovare articoli che mettono in discussione punti importanti del problema dei cambiamenti climatici. Quindi molto spesso ci sono dei professori universitari, abbiamo degli esempi anche italiani, che però se si va a vedere in campo ambientale non hanno alcuna pubblicazione scientifica. Quindi uno può essere un bravo professore di fisica teorica, avere delle belle pubblicazioni sulla fisica delle particelle, però non aver mai pubblicato niente su una tematica anche magari con non direttamente il clima, ma anche connessa con la scienza atmosfera. È evidente che il suo parere vale molto meno magari di grandi ricercatori che abbiamo anche in Italia, che hanno decine di pubblicazioni su riviste molto prestigiose. Qual è dunque lo strumento per la valutazione di questi pareri, visto che questo è uno di quei temi su cui molti, direi, se non quasi tutti, tendono ad intervenire? È evidente, il ricorso al principio di autorità ha dei grossi limiti, quindi però un'indicazione può darla. Quindi se un ricercatore ha fatto delle pubblicazioni sulle tematiche climatiche o in generale ambientali, quindi ha un'idea di qual è il problema dell'atmosfera, dei diversi comparti ambientali che concorrono al clima, pensiamo agli oceani, la biosfera, allora se ha delle pubblicazioni è abituato a sottoporre le sue tesi, a essere magari cauto nelle affermazioni clamorose. Quello che capita a volte è che si dà un credito a degli scienziati, chiamandoli scienziati con conto corrente, che però sono di completamente altri settori. Quindi il primo suggerimento che io potrei dare per dire il mondo dell'informazione è di dire, validare, valutare appunto delle tesi quando sono veramente clamorose, guardando appunto se queste tesi hanno un riconoscimento nella comunità scientifica più generale, perché è difficile, visto che ci sono mai così tanti migliaia e migliaia di ricercatori, di scienziati che lavorano su questo tema, che si scopra qualcosa di davvero clamoroso. Sarebbe veramente una stranezza, perché il processo scientifico avanza generalmente per piccoli passi in avanti. Insomma, ci tocca diffidare anche dei titoli clamorosi. Lei tra l'altro cita il concetto della verità assoluta in una frase presa in una citazione di Giulio Giorello, dice: se viene intesa come scopritrice di verità assoluta, la scienza rimane disoccupata per mancanza di verità assoluta. La comunità scientifica non può dare delle certezze assolute, dà dei gradi di probabilità. Quindi se si guarda anche quel rapporto citato dell'Intergovernmental Panel on Climate Change, quindi questo organismo ONU, si vede che ragiona sempre in termini di gradi di probabilità. Dice che è veramente improbabile, dati i range di probabilistici di incertezza, che l'attuale riscaldamento sia spiegabile senza le attività umane. Okay? Quindi non c'è la certezza assoluta, però ormai si stanno restringendo talmente tanto i margini di incertezza che ormai dobbiamo fare qualcosa. Generalmente in campo ambientale ci muoviamo quando abbiamo molta meno consapevolezza rispetto a quella che abbiamo nella scienza del clima. Marco Magrini, la consapevolezza cambia anche nel mondo dell'impresa, nel mondo dell'industria. Il cambiamento non è relegato solo al mondo strettamente scientifico e verde. No, assolutamente no, perché abbondano le alleanze fra multinazionali, ce ne saranno almeno 10. Sto parlando di imprese multinazionali che si sono alleate per, come dire, contribuire alla riduzione delle emissioni. Per quanto riguarda la questione che dicevamo prima, negazionismo, scetticismo, catastrofismo, io credo che in ultima analisi il problema verta intorno al principio di precauzione, che è un principio ormai consolidato nel diritto internazionale, laddove si spiega che di fronte anche solo all'eventualità di un cambiamento climatico consistente da qui a fine secolo, come dicevamo prima, i governi devono fare qualche cosa, e devo dire che il mondo delle imprese in molti casi si è mosso molto più rapidamente dei governi negli ultimi anni. Questa credo la conosciate tutti. It was a creed written into the founding documents. Il cambiamento, il poter cambiare, insomma, in questi mesi della corsa, della formidabile corsa di Barack Obama, appena conclusa, per raggiungere la Casa Bianca. Mi piacerebbe ragionare in questi ultimi minuti su che cosa porterà questo cambiamento, questa figura, questo leader formidabile che intorno ai temi dell'ambiente e dei cambiamenti climatici ha preso peraltro già chiaramente posizione. Allora Magrini, cosa dobbiamo aspettarci? Beh, dobbiamo aspettarci un cambiamento radicale dalle posizioni dell'amministrazione Bush. Il fatto importante è che Obama sta legando i suoi piani per le energie alternative ai pacchetti per lo sviluppo economico. Come tutti sappiamo, l'amministrazione Obama sta preparando pacchetti di stimolo di portata mai vista nella storia, si parla fino a 1.000 miliardi di dollari. Intende usare almeno 150, questo almeno è quello che ha detto, 150 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni per favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili e, dice lui, per creare 3 milioni di posti di lavoro verde. Questa la tendenza che si avverte in questo momento, cioè non considerare il cambiamento climatico come una maledizione che dobbiamo scongiurare. In realtà il cambiamento climatico può essere visto come un'opportunità, non soltanto per creare nuovi posti di lavoro, ma per dotare il mondo di un sistema energetico che sia più razionale dell'attuale e ovviamente che prenda sempre più le distanze dai combustibili fossili. Grazie Marco Magrini. Io direi di concludere da dove siamo partiti, cioè il record di ghiaccio artico. Allora, Stefano Caserini nel suo libro affronta in un capitolo specifico proprio questo tema, in qualche modo un tormentone viene definito da altri. Allora, facciamo il punto in conclusione sullo stato del ghiaccio artico. Ma è uno stato molto critico, il ghiaccio marino artico è in diminuzione, c'è una diminuzione di circa 47.000 km quadri all'anno. Nel 2007 è stato un anno veramente drammatico, in cui c'è stata una diminuzione molto evidente e maggiore di quella che era prevista, per dire alcuni fenomeni particolari che si sono verificati. Per cui il 2008 ha ripreso leggermente, ma solo perché il 2007 era stato veramente un record negativo molto rilevante. Ecco Caserini, ma perché possiamo essere così certi? Perché così certo di questa affermazione, visto che per tutta questa puntata abbiamo parlato dei dubbi, insomma ci sono comunque delle certezze. Il dato del 79-2009 corrisponde anche a quella che è la storia dei satelliti per l'osservazione. Sì, ma allora quella polemica era sulla somma del ghiaccio marino artico e antartico, quindi certo. È vero che nell'Antartico il polo sud si sta riscaldando meno, si sta riscaldando molto poco rispetto al polo nord e di conseguenza lì il ghiaccio marino è stabile o in leggera crescita, per cui se si sommano due punti poi sbagliati come hanno fatto appunto su questo blog si può vedere una leggera tendenza di crescita, ma non è così. In realtà anche soltanto la diminuzione del ghiaccio marino artico e dei ghiacci anche della Groenlandia, quindi ghiacci che invece aumentano il livello del mare come sono i ghiacci che stanno sulla terraferma in Groenlandia, ecco, questi dati sono evidenti, non sono di fatto discussi. La comunità scientifica sta solo discutendo oggi se c'è da aspettarsi una prima estate senza ghiaccio marino nel 2040, nel 2035, nel 2045. Quindi ormai vengono dati sostanzialmente per spacciati i ghiacci marini artici, se devo essere un po', come dire, un po' drastico, però di fatto sta facendo un po' di titoli. Non è più quello il punto di discussione, cioè se sta diminuendo. Il punto è se si riuscirà con le politiche che appunto di cui ha parlato Magrini, che si spera che verranno intraprese nei prossimi anni, si riuscirà a diminuire le concentrazioni in modo tale da evitare di perderne troppo di questo ghiaccio marino. Poi è evidente che in dicembre comunque avremo il ghiaccio marino, perché comunque d'inverno, perché l'acqua gela di fronte. Il problema cos'è? Che anche soltanto, senza guardare l'Antartico, anche soltanto la scomparsa del ghiaccio marino artico in alcuni mesi è comunque molto grave, perché accelera il fenomeno del riscaldamento globale per via di alcune retroazioni. È come se noi dicessimo che magari al nord Italia aumentano le precipitazioni del 90%, al sud Italia diminuiscono del 90%, quindi siamo pari. No, ok, quindi soltanto il danno, anche soltanto all'Artico, è già un danno che dobbiamo cercare in tutti i modi di evitare con delle politiche climatiche serie. Siamo dunque arrivati alla conclusione. Io ringrazio naturalmente Stefano Caserini, docente di fenomeni di inquinamento al Politecnico di Milano, Marco Magrini, inviato del Sole 24 Ore. Ringrazio Carmelo Lauricella in regia. Come vi ho anticipato, alcuni dei contenuti, tra cui delle immagini legate appunto allo scioglimento dei ghiacci nell'Artico, li potrete trovare sul nostro sito www.radio24.it. Noi siamo arrivati alla conclusione. L'appuntamento con 30 minuti in cronaca è per sabato prossimo. Un buon fine settimana a tutti.